Ridammi il tempo indietro, quello che mi hai rubato. Mi perdi ancora in mezzo a tutti quei discorsi, come fossero esplosioni. Sento il freddo che si agita sui polsi. E adesso non riesco neanche più a immaginare. E i pensieri sembrano quasi finti, come la luce artificiale. Fammi uscire dalle cose che non so spiegare. Vorrei andare a pensare nelle aree di servizio, cercare le risposte alle tue domande nei distributori automatici. E non ho più bisogno delle armature, e mi libero dalle paure. Vorrei sparire insieme, vorrei sparire. Scappo dalle malinconie, adesso che siamo negli orari straordinari, fuori dagli svincoli autostradali. L'odore di urina mi invade nei bagni della stazione. E l'odore di urina mi invade nei bagni della stazione. Vorrei andare a pensare nelle aree di servizio, cercare le risposte alle tue domande nei distributori automatici. E non ho più bisogno delle armature, e mi libero dalle paure. Vorrei sparire insieme, vorrei sparire. Che le tue braccia sono grandi come le autostrade. Io ci voglio entrare, io ci voglio entrare dentro. Io ci voglio entrare, io ci voglio morire. Il nostro appuntamento del lunedì con Festivals Backpack, con un ospite, insomma, perché ci piace anche raccontarvi live con gli artisti i concerti che si terranno tra poco, in modo che uno se li possa mettere in calendario ed essere già pronto per ascoltare della musica live. Oggi ospitiamo un artista che tra l'altro vive anche a Bologna, pur non essendo bolognese. Chiederemo anche quanto Bologna sia all'interno della sua musica. Benvenuta Miglio su Radio Città Fujiko. Grazie, ciao, ciao a tutti. Per prima cosa io ti chiederei come stai e come ti senti, insomma, visto che tra poco ti potremmo sentire live sia a Modena che a Bologna. Sto bene, dai, infatti tra poco vado a fare le prove, quindi siamo in preparazione. No, beh, c'è tanta voglia di suonare, di tornare a farlo, sono molto contenta. Allora, prima di questa intervista abbiamo sentito un primo pezzo che hai scelto, insomma, che è Autostrade, che è una delle canzoni che potremmo sentire, insomma, live e che fanno parte del tuo nuovo lavoro, insomma, dell'EP Manifesti e Immaginari Sensibili. Intanto ti chiederei che storia racconta questo EP e anche come mai hai scelto poi di dividerlo, perché se non sbaglio uscirà una prima parte adesso e un'altra invece tra un po' di tempo. Sì, allora cerco di rispondere alla prima. Diciamo che è un lavoro che racchiude molto di questi anni, di questi ultimi anni di vita, e quindi è sicuramente un lavoro che racchiude la mia vita e magari non solo, ecco, anche quella da me, della vita degli altri, quindi comunque molto del mio punto di vista, di ciò che ho vissuto, dei luoghi, delle persone che ci sono state, quindi è sicuramente un lavoro molto introspettivo, se vogliamo. Ci sarà una parte che continuerà, nel senso che stiamo lavorando, è da definire, sicuramente uscirà un nuovo lavoro non troppo lontano, ma neanche vicinissimo. Noi diciamo una seconda parte, ma vedremo, ci stiamo lavorando. Sarà sicuramente un proseguo, ma anche qualcosa di molto diverso. Quindi è collegato, ma non troppo, insomma. Sì, se ho capito bene. Esattamente. Okay. Manifesti e immaginari sensibili, tu lo definisci un po' come il racconto di una generazione tra connessioni e solitudini comuni. Viaggio di notte in un non luogo qualunque, tra l'odore di urina nei bagni delle stazioni, la vita prepotente che echeggia sulle scritte dei muri. Insomma, una visione romantica e distorta del mondo intorno. Come nascono un po' le canzoni di questo album? Appunto, dove prendi ispirazione, oltre che dai bagni della stazione? E i bagni della stazione perché li frequento davvero, nel senso, non perché frequento i bagni della stazione, ma perché viaggio molto. Quindi, appunto, ricollegandomi anche alla domanda precedente, ma l'ispirazione poi in realtà a volte arriva, altre volte te la devi cercare un po' anche tu. Io più che ispirazione scrivo perché è un modo che mi fa stare bene e lo riesco a fare meglio rispetto a quando invece devo farlo senza il mezzo artistico, mi viene da dire. E ci sono ovviamente tutti questi luoghi reali, alcuni reali, fisici, che sono davvero, che mi hanno dato qualcosa, altri invece metaforici anche. Continuiamo a scoprire intanto questo album, appunto, che ci stai raccontando, e ti chiederei se ti va di scegliere un'altra traccia da condividere con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e poi continuiamo a chiacchierare. Ok, vabbè, direi India. Perfetto, allora l'ascoltiamo e poi torniamo da te. Mi ricordi l'India, mi ricordi tutti i posti che non ho ancora visto. Dopo India e continuiamo a chiacchierare con Miglio. Parliamo un po' delle influenze musicali che ci sono nei tuoi brani, soprattutto in quello dell'ultimo EP, Manifesti e Immaginari Sensibili. Ma sì, sicuramente questo lavoro ci sono finite tante delle cose che mi piacciono, che ci piacciono anche con il mio produttore con cui ho lavorato al lavoro, ci tengo a citarlo sempre, che è Marco Bertoni. Abbiamo fatto mesi di ascolti, appunto ascoltando le cose che a me sono sempre piaciute, quindi c'è sicuramente molta new wave, c'è sicuramente post-punk, anche del cantautorato, musica elettronica, ci sono finite dentro tante cose, per citare qualcuno, i Cure, Joy Division, cose anche più attuali, MGMT, Arcade Fire. Io ti chiederei invece come ti sei avvicinata al mondo musicale, perché comunque hai avuto diverse date, adesso c'è questo album, insomma, quando è che hai iniziato il tuo rapporto con la musica e come anche? E io ho iniziato in realtà da piccola, nel senso che mi sono ritrovata subito in un ambiente molto in fermento dal punto di vista musicale, mio padre suonava, quindi anche non volendo la musica l'ho conosciuta subito. Diciamo che ho iniziato a suonare i primi strumenti, comunque la chitarra, e a scrivere poi a 12-13 anni. Poi ho iniziato a fare esperienze dal vivo ovunque, quando non c'era ancora Miglio, cioè semplicemente io uscivo a suonare il più possibile. E Miglio ha iniziato effettivamente nel 2018, a livello tra virgolette diciamo discografico di pubblicazione, sì, nel 2018 con i primi singoli. Tu sei bresciana ma residente a Bologna, no? Queste due città in che modo sono entrate nella tua musica e nel tuo ultimo EP? In maniera super preponderante, nel senso che ci sono totalmente, proprio perché queste canzoni appartengono a questi anni, in questi anni, ma da sempre, poi probabilmente continuerà ad essere così, c'è proprio quello che era la mia vita prima, poi tutta quell'altra parte dove Bologna ovviamente c'è, perché è la città in cui ho scelto di vivere e c'è sicuramente. Abbiamo iniziato questa puntata spiegando anche che sarai a breve su dei palchi che sono geograficamente vicini a Bologna, insomma, quindi io ricorderei un po' quali sono queste date, se ti va puoi di scegliere una canzone con la quale possiamo salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e se vuoi anche dirgli qualcosa, insomma, per invitarli ai tuoi live. Ci provo con le date. Allora, le prime sono il 18 marzo, il prossimo venerdì a Loft Modena, poi il 30 marzo sono all'Arte Bellezza di Milano, il 31 marzo invece sempre qua a Bologna allo Slurp al cortile, per Cortile Caffè. E nulla, il prossimo brano è Baby Baby Balla Balla. Grazie mille allora per questa chiacchierata, ci ha fatto molto piacere insomma scoprire questo tuo nuovo lavoro musicale e grazie. Ti ringraziamo allora e ti auguriamo insomma una buonissima giornata e dei buonissimi concerti. Grazie mille ragazzi, grazie. Oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla. Voglio semplificarmi in ordine come una cassa dritta. Voglio semplificarti adesso nella mia memoria interna, e poi cercarti in un impianto da cui fuori esce solo della musica classica o stereofonica. Amplificarti come se fossi in una piazza in tutta la città. Oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla, oh baby baby balla balla. Penso continuamente al ritmo incessante della tua voce nella mia testa. Crollerebbero i muri dove ho immaginato il tuo ritorno. Cazzo, il metallo è freddo, se lo tocco lo vorrei sentire sui denti per ingrandire il mio dolore. Così nei sogni hai la faccia storta e io ho paura di dimenticarti. Voglio semplificarmi in ordine come una cassa dritta. Voglio semplificarti adesso nella mia memoria interna, e poi cercarti in un impianto da cui fuori esce solo della musica classica o stereofonica. Amplificarti come se fossi in una piazza in tutta la città. Le insegne delle pizzerie d'asfalto sono tutte colorate. Muoviti sopra questo pezzo, muoviti sopra il disc jockey,